intanto grazie per l'invito, grazie ancora una volta allo studio per essere questo luogo davvero libero dai vincoli, per esempio, di natura economica. Ciò che chiaramente permette a chiunque venga qua di esprimere pensieri, mi verrebbe da dire, laici. E ci provo anch'io. Io mi occupo di cose molto più pedestri di quelle di cui normalmente si discute qua, per esempio poesia, letteratura, teatro, filosofia. Mi occupo di media, dell'industria dei media e dei modelli economici che però hanno un peso molto importante. Penso che in tutta questa discussione, lo diceva anche Elisa nell'introduzione, noi abbiamo il problema del sospetto automatico che ci scatta di fronte a una nuova tecnologia. È un tema ricorsivo, si parte addirittura dalla stampa a caratteri mobili, nei confronti della quale ci fu un'opposizione spaventosa. C'è la scrittura con Platone. Sì, c'è la scrittura con Platone, ma pensiamo a tutta la Controriforma, e pensiamo poi appunto alla radio, subito identificata con le dittature, il cinema, poi la televisione, poi i social media, adesso l'intelligenza artificiale. Abbiamo una specie di nemico invisibile, io credo, che è il tecnodeterminismo, cioè il fatto di pensare che la tecnologia in sé determini i nostri destini. È vero, come diceva McLuhan, che la tecnologia non è mai neutra, è giusto parlarne, cambia gli scenari, cambia le cose, però se la tecnologia non è mai neutra, io dico sempre, facendo una battuta, figuriamoci il capitale, perché qui il problema non è tanto, si dice no, non è la tecnologia, è come la usi tu. Io prima ancora del come la usi tu direi come ci si decide di farci i soldi. Questo mi sembra un tema più interessante. Anche per internet credo che valga questo ragionamento, e ancor più per l'intelligenza artificiale. Facendo un passo indietro, perché qui si parla del problema della permanenza e dell'impermanenza, proprio nell'introduzione sentivo dire che il problema è che appunto i testi digitali non sono permanenti. Ed è abbastanza curioso, no? Questo è un errore, anche questo, che ritorna sempre, no? A un certo punto la RAI smette, per esempio, di archiviare i propri programmi in kinescope, cioè su pellicola, e decide di passare a questa nuova tecnologia che era l'Ampex inferrite. L'Ampex deperisce miseramente dopo 30 anni e quindi oggi abbiamo cose, abbiamo dei buchi della parte più recente, e abbiamo meglio conservato l'asce raddoppia che era ripreso su pellicola. Incredibile, no? Questo, se uno va anche a Luce, a Cinecittà, si rende conto che in realtà quella tecnologia era un passo indietro dal punto di vista della permanenza. Ecco, anche il digitale prometteva all'inizio una ragionevole permanenza indefinita di ciò che uno avrebbe pubblicato, ma lì non era, mi sembra, un limite della tecnologia in sé, perché chi pervicacemente vuole mettere internet a disposizione della permanenza dei contenuti, per esempio mi viene in mente il progetto Internet Archive di Brewster Kahle, ci riesce a dare una promessa ragionevole di eternità. I signori dell'Università di Siena che salvano gli hard disk potrebbero benissimo fare un accordo con Internet Archive, che è una grande organizzazione no profit, per far sì che tutti questi hard disk, superati i problemi di diritti eccetera, siano non solo permanentemente conservati ma anche permanentemente accessibili. E se oggi i contenuti non sono più garantiti una volta che li pubblichiamo su internet, quindi non è per la tecnologia in sé, per il fatto che non ci siano abbastanza server, per il fatto che richieda energia per farli funzionare, non è questo, è che non c'è nessun modello economico che sostenga la permanenza. Questo è il problema. Anzi, le piattaforme... Hai ragione, che... è come per la conservazione dei manoscritti. Esatto. Scusa. No, sono tutti temi che tornano puntualmente. Chi fa soldi oggi su internet fonda il proprio successo economico, pensiamo appunto alle grandi piattaforme che abbiamo citato prima, Meta, Amazon, Apple, eccetera, Google naturalmente, fonda proprio sulla fragilità della memoria. perché vabbè, sappiamo, il modello funziona così: si stabilisce una finestra rilevante dell'attenzione della persona, l'attenzione è diventata l'unica vera risorsa scarsa, se i contenuti sono infiniti è il tempo che noi siamo dedicati a, che abbiamo dedicato alla fruizione, che è una risorsa scarsa, no? In economia la risorsa scarsa è quella su cui si riesce a costruire un modello economico. Anzi, la pluralità dei contenuti è considerata nemica del modello economico attuale. E quindi cosa si fa? Si crea una finestra, un frame, come ho definito, all'inizio della quale diventa rilevante che i nostri occhi cadano su quel contenuto e poi finisce la finestra. In quel frame è possibile rivendere la nostra attenzione agli inserzionisti di queste grandi piattaforme, non solo, anche rivendere i nostri dati, perché noi più interagiamo e più rivendiamo dati che poi vengono rivenduti a loro volta agli inserzionisti per profilarci sempre meglio e propinarci cose apparentemente personalizzate, apparentemente rilevanti per noi. Fondamentalmente quindi quell'economia digitale di oggi, e dentro ci finisce naturalmente anche la poesia, la letteratura eccetera, dentro queste piattaforme funziona funziona proprio in virtù del fatto che in quel momento noi non abbiamo accesso a tutto il resto. Cioè, il valore sta nel fatto che noi in quel momento non pensiamo ad andare fuori da quel frame. In quel momento, per esempio, quando siamo su Facebook e ci appare qualcosa nella timeline, il valore sta nel fatto che non ci viene di andare su Slow Forward, dove magari Marco Giovenale ha pubblicato un video di Carmelo Bene al Beat 72, che magari potrebbe essere molto più rilevante per noi in quel momento, se il nostro neurone avesse il tempo, no, di dire ok, su internet c'è tutto, di che cosa veramente adesso io avrei bisogno? No, quel momento non c'è, viene sottratto dalla nostra attenzione, perché in quel momento la piattaforma ci tira su qualcosa che tira fuori le nostre emozioni, ci fa interagire. Più interagiamo e più facciamo ricircolare dati. Anche per quello chi fa il training dell'intelligenza artificiale deve necessariamente imparare a tirare fuori le emozioni dalle persone, perché senza le emozioni anche i futuri modelli di rivendita di quella tecnologia non funzionerebbero abbastanza, perché insomma è abbastanza facile prevedere quali saranno i modelli dell'intelligenza artificiale nei prossimi 10 anni. Dimentichiamo il futuro auspicabile, meraviglioso dell'intelligenza artificiale. In questo momento i padroni sono personaggi come Elon Musk. Cosa vorranno fare queste persone? Vorranno continuare ad avere finanziamenti da venture capitalist, ai quali è molto difficile fare un discorso più evoluto di rivendiamo le emozioni e le reazioni delle persone. Quindi ci sarà un business model per il pubblico generale molto simile a quello dei social media, giocato sulle nostre emozioni, e poi naturalmente un business model alto industriale per le varie industrie, a cui l'intelligenza artificiale venderà un vantaggio competitivo per la singola industria. Pensiamo per esempio all'energia. No, nell'energia è chiaro che chi mette le mani su un modello che ti permette di allocare meglio le risorse vince nel mercato dell'energia. Io lavoro per un'azienda di telecomunicazione, la Fibercop. A me sicuramente Elon Musk che cosa venderà? La capacità di allocare risorse di rete in modo più efficiente, così per me diventa un vantaggio competitivo, e questo magari può anche essere un fatto positivo. Quello che mi preoccupa è il modello consumer, non il modello, diciamo, top business, e lì dentro ci finisce anche tutta la creatività, quindi tutta la letteratura, tutta la poesia, il cinema, la televisione. Ecco, ancora una volta metteremo quella tecnologia al servizio di un modello tossico. Già lo vediamo con i social media, che tendono a dividerci, tendono a distrarci, tendono a non stimolare la nostra reale curiosità per capire cosa davvero nell'immensità della rete rilevante per noi. Ciò che dovrebbe preoccuparci di questa evoluzione a breve termine è che i modelli saranno quelli che possono essere capiti da un venture capitalist. Io ho lavorato da un investitore di capitale di rischio. Sono personaggi che vogliono rischiare un po' di più, sapendo però che potrebbero, se gli va bene, guadagnare molto. E l'unico messaggio che gli arriva, l'unico messaggio funzionante che può arrivare a questa tipologia di interlocutori è: se lo capisco io, no? Come diceva Berlusconi, no? Si parla agli investitori come a bambini di 3 anni. ma se lo capisco io funziona. Ecco, purtroppo in questo momento le decisioni chiave sono nelle mani di questa relazione estremamente priva di qualsiasi scrupolo, come quello che credo animi le persone che sono qua convenute. Ci vedono solo come clienti, quindi... Temo che questo sia un problema, è l'unico contributo che io posso dare. Poi è chiaro, il mio intervento qui parla della, che è molto breve, parla della internet delle origini, quella dove ancora non c'era un business così tossico, dove tante persone si esercitavano nella possibilità di creare reti di relazioni, sì, anche personali, attraverso i contenuti. Quindi diciamo esaltando la dimensione relazionale del contenuto, per esempio della poesia, per esempio della letteratura. È grazie a questo che poi sono nati siti come anche GAM, come adesso Slow Forward, come Ubu Web, che guarda caso promette, anche se ormai non è più alimentato, una generica tensione ideale verso verso la permanenza di ciò che sta lì dentro. Ecco, questo slancio ideale oggi è completamente perso, anzi io vedo un numero crescente di autori che dicono sì, ma qui io non trovo più il pubblico, perché il pubblico sta dentro le piattaforme e quindi io devo cedere alle regole delle piattaforme che obbediscono a quei modelli di business tossici. Ecco, io credo che lì finisca il lavoro di un intellettuale, di un artista, di un creativo. Cioè quando tu vai in quei posti perché sai che tanti occhi si poseranno su di te obbedendo a regole che sono completamente svincolate dalla tua volontà di trasmettere qualcosa di te, allora tu smetti di essere, secondo me, su questo magari si potrebbe aprire un dibattito, smetti di essere un libro creativo, la metto molto in termini molto ampi. Ti ringrazio, quindi tu all'inizio hai detto che non è che per la sua essenza il web sia per forza precario o fragile, è che manca, ad opera una parola antica, la volontà politica di investire, o di mercato, di investire sulla conservazione, su come adesso manca la volontà di investire, parlo da bibliotecario ed esperta di quel settore, la volontà di investire sulla conservazione dei libri attraverso le biblioteche, manca questa volontà di scegliere di considerare un mercato futuro intellettuale i libri e la loro conservazione a biblioteche o addirittura del manoscritto su carta. E lo stesso vuoto esiste in questa scelta di mercato, che è un mercato, mi sembra di aver capito, che punta solo all'attenzione momentanea del potenziale cliente al fine di fargli comprare certi prodotti al momento, senza pensare a un investimento futuro. Spesso anche quando in realtà poi con i nostri dati non ci fanno nulla, perché ormai è un'economia finanziaria, non è nemmeno un'economia produttiva, cioè non pensiamo di generare, che so, se io vado su un post di Alberto che mi sarà nella timeline che viene venduto qualche bastoncino di pesce in più, non è questo, perché per esempio se guardate la pubblicità in televisione, ormai quasi tutti sono promo degli stessi programmi televisivi, no? E uno dice, sì, sì. Che cosa vuoi dimostrare? È come il palazzinaro che deve comunque far vedere che sa costruire grandi palazzini a prescindere dal fatto che qualcuno ci vada ad abitare e paghi un affitto o compri l'appartamento. Non è quello. Una volta che tu hai fatto vedere che hai quella potenza, a te interessa solo che i tuoi investitori dicano ok, questo è uno grosso, ha le spalle larghe, continua a dargli soldi. Poi che veramente ci sia un business dietro passa abbastanza in secondo piano, cioè ormai l'interlocutore, come diciamo noi, interlocutore istituzionale chiave, non è nemmeno più il cliente, è sempre l'azionista, è sempre l'investitore. Infatti adesso mi sembra che negli USA ci sia una grande lotta fra due colossi, ho letto, no? Non so se può essere fra Windows, su Microsoft e Google. Questi soggetti sono in lotta da 20 anni. Ma adesso sembra che si sia acuita. Investono tantissimo in tecnologie di intelligenza artificiale, dove Microsoft vede la possibilità di scavalcare Google, che oggi ha il dominio fondamentalmente di tutto quello che sta in rete. mentre Microsoft ha il dominio di tutto quello che succede nei nostri uffici, come sapete. Beh, queste lotte continueranno sempre. Il problema di fondo è che non sono nemmeno più lotte di mercato, sono lotte per la quotazione finanziaria, sì, sono, certo. È il titolo poi alla fine. Certo, che... Scusa, io ti ringrazio moltissimo. Solo una piccola curiosità, perché a questo punto di questo bellissimo discorso, quello che mi viene, diciamo, la curiosità basilare, ma questo è un territorio selvaggio oppure c'è una, non esistono delle regole, una regolamentazione, cioè tutto troppo allora, nuovo? In passato, quando si andava verso, perché questi sono monopoli naturali, cioè infatti, quello che è successo è che sono monopoli naturali. Nel senso che c'è spazio solo per un dominatore di tutto il commercio elettronico, per esempio, in Occidente, che è, come sapete, Amazon, magari in Oriente c'hanno Alibaba e WeChat, c'hanno altre cose, non importa, però ci sono i monopoli naturali e dovrebbe saltare fuori, diciamo, l'operazione antitrust, tipo quello che fu fatto negli anni 70-80 con le Baby Bell nelle telecomunicazioni, dove c'era lo stesso rischio. Ma quando Elizabeth Warren, durante la campagna precedente presidenziale, disse: se vinciamo noi facciamo a pezzettini tutti questi grandi monopoli, è sparita dalla TV, non è nemmeno sparita dalla campagna. Ed era la campagna di Biden. Quando la Warren disse questo, questo ti fa capire come questi colossi governino anche diciamo, i loro referenti politici ai più alti livelli. E quindi il problema è che la cultura dell'antitrust e della competizione, del libero mercato, eccetera, è completamente schiacciata, cioè si procede anzi verso ulteriori acquisizioni, agglomerazioni, anche quello che ha fatto, che si fa, sta facendo con OpenAI, no? Che è il principale player in questo momento, è anche lì il tentativo è diventare quello che basterebbe per tutti, facendo così sparire Gemini, che sarebbe il modello di Google per cui lavora Elisa, e facendo sparire anche il modello di Microsoft e gli altri modelli emergenti, almeno in Occidente. Forse le uniche barriere, forse, sono quelle geopolitiche in questo momento, paradossalmente. C'era una domanda? Sì, in realtà forse già l'hai risposto ora. Come è possibile, secondo te, in qualche modo inserire una discontinuità rispetto a questo che sembra invece un'irreversibile, allora, inarrestabile? La sensazione, ma, la sensazione è che lì... Penso poi un dominio della tecnica. Sì, sì. La discontinuità è che questo processo, comunque obbedendo sempre e comunque alle trimestrali, massimo semestrali di cassa, in realtà tende anche all'entropia e all'autodistruzione. Per esempio Facebook a un certo punto ha smesso di crescere proprio perché è diventato un ambiente tossico e fondamentalmente così aborrito dalle giovani generazioni, che dicono è un posto dove andate voi boomer, mia figlia ha ragione. Cosa ha fatto Meta? Intanto creiamo il mondo anche per queste giovani generazioni, l'hanno creato su Instagram e in altri posti, TikTok è un altro soggetto ancora, però lì siamo sempre dentro la stessa azienda, Meta, no? Quindi quello che succede è che a volte è proprio il sistema che è così tossico in sé da collassare, anche Twitter in qualche modo oggi sta autocollassando al suo interno. Non c'è una, come dire, una policy, una public policy. Per esempio l'Europa è abbastanza avanzata rispetto agli Stati Uniti, perché noi quantomeno su queste cose decidiamo tutti insieme, no? Come si fa con la Digital Service Act, come abbiamo fatto con l'accordo sulla privacy precedente, adesso mi sfugge l'acronimo, però tutti lo conoscete, il GDPR, esatto, lo conoscete. Quindi l'Europa in qualche modo, non so se per una maggiore consapevolezza del problema oppure per... anche lì per questioni abbastanza contingenti, in qualche modo riesce ad avere a rappresentare un fronte comune, però sono temi così globali che in realtà andrebbero affrontati. Esisteva per esempio una cosa che si chiamava L'ITU ai tempi delle telecomunicazioni, si prendevano grandi discussioni sugli standard industriali, no? International Telecommunication Union, sì. Cioè si prendevano decisioni lì per tutto il mondo. Poi successivamente l'Internet Governance Forum, un nome che in sé era un'ambizione anche eccessiva, no? Ci vorrebbe una sorta di ONU delle tecnologie dell'informazione, ma abbiamo visto come sta andando l'ONU della risoluzione del 67, sì. Quindi insomma credo che... Bene. Mi dispiace di lasciarvi con questo messaggio un po' pessimista. Ti ringraziamo, grazie, veramente un applauso. Grazie. Chiederei un piccolo stop invece del tuo libro, perché il 15 novembre qui allo studio Campo. Grazie, consigli per te. No, c'è la presentazione del mio ultimo saggio che si intitola Stiamo sprecando internet, che è uscito nel 2023 per Cesari. Se venite, mi fate veramente molto felice, perché appunto è questa di Alberto, è una rete di persone di grandissime teste che normalmente è un po' fuori da quelle tematiche, no? Appunto vi occupate di cose più belle, giustamente.